395. Funghi in umido. Per l'umido sono da preferirsi quelli che stanno sotto la grandezza mediocre. Nettateli, lavateli e tagliateli a fette più sottili dei precedenti. Mettete un tegame al fuoco con olio, qualche spicchio di aglio intero, un po' ammaccato e un buon pizzico di foglie di nepitella. Quando l'olio comincia a grillettare, gettate giù i funghi senza infarinarli, conditeli con sale e pepe e a mezza cottura, bagnateli con sugo di pomodoro semplice. Siate però parchi coi condimenti, perché i funghi non li assorbono.